X24 di Giovanni Minoli. Il generale Haftar ha dichiarato guerra totale alle milizie islamiste che finora si erano spartite il controllo di gran parte della Libia. Sono almeno 11 le vittime degli scontri tra ex ribelli anti-Gheddafi e altri manifestanti a Bengasi, in Libia. Non è un colpo di Stato, giura il generale Haftar. È destinato a crescere nelle prossime ore il bilancio delle vittime degli scontri a Bengasi tra le forze leali al generale Khalifa Haftar e le milizie islamiste del gruppo Ansar al-Sharia. La Libia resta di grande attualità soprattutto per l'Italia, che deve affrontare il problema degli sbarchi. E infatti solo negli ultimi giorni con le operazioni Mare Nostrum abbiamo accolto 3.300 migranti. La Libia è il paese chiave per gestire e sostenere i flussi di migranti che arrivano dall'Africa e dai paesi arabi in guerra. La Libia è un paese che dopo l'uccisione di Gheddafi nel 2011 è fuori controllo, è in mano a 40 tribù che si sono spartite le zone strategiche, il porto di Misurata per gestire appunto il traffico degli esseri umani, i pozzi di petrolio fondamentali per il rifornimento energetico anche dell'Italia, l'acqua, le città, la sicurezza della Libia. 40 tribù che Gheddafi teneva unite sotto un'unica bandiera. Intanto la Libia è passata in mano a un militare, l'abbiamo sentito. Ecco Pietrangelo, un altro militare come in Egitto. Perché? Perché si fa la somma di tutti gli errori che si sono radunati in quest'ultimo periodo. Ed è semplicissimo il meccanismo. Il tentativo di applicare in quelle realtà un metodo tutto occidentale, prima tra tutti la democrazia, si rivela sempre fallace. Perché se viene data la possibilità di esprimersi e di volere, quindi di scegliere e di determinarsi, anzi di autodeterminarsi, ne consegue che poi questa volontà non coincide con gli interessi internazionali, senso che gli egiziani avevano voluto uno che fosse come loro, la maggioranza degli egiziani si era riconosciuta, e quindi si torna un militare anche, si ritorna un militare anche perché a maggior ragione in Libia, certo. A maggior ragione perché in Libia hanno giocato sporco le potenze egemoniche, soprattutto in Europa, Francia e Inghilterra, a discapito poi di fessi totali quali siamo stati noi italiani. Ecco Mario, il leader della milizia islamica, Ansar al-Sharia, in un messaggio ha avvertito gli Stati Uniti e gli ha detto di non interferire negli affari interni libici per evitare di ritrovarsi in un pantano peggiore dell'Iraq e dell'Afghanistan. È troppo tardi o ha ragione? È molto tardi, nel senso che noi abbiamo visto e ascoltato il discorso di Obama a West Point, era un discorso importante per la politica estera, è stato molto deludente. Foreign Policy l'ha definito il discorso di un realista riluttante, cioè gli americani non vogliono mettere più i boots on the ground, cioè gli stivali sul terreno di guerra, perché gli costa troppo. Insomma, non hanno strategia, non hanno una grande strategia. Non ce l'hanno. Una definizione divertente, ahimè, sempre di Foreign Policy sulla politica estera di Obama: low cost. Talmente low cost da essere Walmart, e quindi è questa la realtà. Ecco, certamente Gheddafi governava con metodi lontani da quelli democratici, come diceva Pietrangelo, ma aveva trasformato la Libia in un paese importante per l'Occidente e per il futuro dell'Africa. Io l'ho incontrato a Tripoli, ho fatto un faccia a faccia con lui nel 2004, col colonnello, sotto una tenda, alle spalle c'erano i resti del palazzo dove viveva Gheddafi fino alla notte in cui venne bombardato da Bush Senior. Ecco, risentirlo adesso può essere interessante per fare delle riflessioni. Colonnello, Berlusconi è stato il primo leader occidentale che lei ha incontrato dopo la fine dell'embargo. Ecco, perché proprio Berlusconi per primo? Libia e Italia ora sono paesi amici, sono vicini e dirimpettai sul Mediterraneo. I nostri rapporti sono molto buoni e anche i governi che hanno preceduto il nostro amico Berlusconi hanno compiuto degli sforzi enormi in ambito internazionale a favore della causa libica. Era perciò nostro dovere accogliere e dare il benvenuto al presidente del governo italiano e ringraziarlo

Ho mobilitato il popolo ad esercitare il potere senza rappresentanza, senza governo, senza intermediazioni. E quindi può durare altri 35 anni? Grazie, grazie. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666. Naturalmente fu Reagan a bombardare la Libia, non Bush, è stato un errore. Mix 24. Pietrangelo, questo Gheddafi è interessante risentirlo. Molto interessante. Se posso fare un paragone, e il termine di comparazione non è offensivo, tutt'altro. Quando Gheddafi parla di democrazia partecipata, quando descrive il meccanismo di passaggio di potere dal popolo al ruolo che ha, beh, sembra Beppe Grillo. Lo stesso meccanismo, sostituendo alla rete internet di oggi la sabbia del deserto, che naturalmente non la puoi contare, quindi. Ma non lo so, e ho sempre i dubbi su che cosa è successo in Libia. I dittatori possono cadere, probabilmente per Gheddafi era arrivata l'ora, solo che non è stato sostituito con qualcosa che sta in piedi. Certo, per comunque cui non era preparata, certo, la sostituzione. No, quindi diciamo così, la soluzione di il nation building è un disastro finora. Non so come ne usciranno, francamente. Canzone. Non andare via, non andare via, non andare via. Io ti offrirò perle di pioggia venute da dove non piove mai. Aprirò la terra giù fino nel fondo per coprirti d'oro, d'oro e di luce, e ti porterò dove non c'è più quello che tu cerchi e quel che tu vuoi. E allora? E allora oggi? Oggi in metropolitana è periodo di ultime interrogazioni, la scuola sta per finire e mi sono accorto di un ragazzo che era concentrato a studiare, a tradurre, a ripetere, a recitare il verso di Catullo. Odio e t'amo, t'odio e t'amo. Non so come sia possibile, ma sento che è così e mi distruggo, me ne struggo. E ogni volta che leggeva, traduceva, ripeteva, passo dopo passo, vagone dopo vagone, una ragazza si avvicinava a lui e, mettendosi davanti a lui, ascoltando Catullo, ha ripetuto non andare via. Sento che credevi morto, molte volte il fuoco è rinato ancora, ed il fuoco brucia tutto quanto intorno e non riconosce niente e nessuno, e quando la sera se c'è fuoco in cielo, il rosso ed il nero Mario non hanno confine. Mario, comunque andare in metropolitana con Pietrangelo è un'avventura. Io fossi in lui farei un libro di questa, addirittura un audiolibro. E siccome l'idea è mia, butta a fuoco poi il 50%. Però la musica, voglio ricordarlo, è nella versione di musica nuda. Non andare via. Bolle. At this hour there are hundreds of thousands of people here in Tiananmen Square, perhaps as many as 500,000, even more. In the history of communist China there has never been anything like this. Beh, questo era il servizio della CNN di 25 anni fa, 1989, Piazza Tiananmen, era la rivolta, la cosiddetta, certo. E cosa protesta. È rimasto? Niente. Allora, e con me oggi la Cina, volevo fare un po' un dialogo con te e Pietrangelo. Vabbè, è in corsia di sorpasso per diventare la prima potenza economica, è un gigante dei consumi, è un titano della rete, però resta un nano della libertà sotto moltissimi aspetti. Per carità, poi non bisogna neanche eccedere nella retorica e neanche invocare troppo questa cosa che è la democrazia come la vediamo noi occidentali, perché la democrazia è un metodo per governare. Però, certo, la possibilità per gli uomini e le donne di essere non sotto, ma sopra o con lo Stato, questa non c'è. Ho letto un bellissimo racconto testimonianza sulla Cina odierna, su Foreign Policy. È una delle cose che mi ha colpito, anonimo ovviamente, non firmato, perché altrimenti l'autore si passano guai seri. Però la cosa che mi ha colpito è questo paradosso che oggi con la rete, col controllo elettronico, con la sorveglianza informatica, c'è meno libertà di 25 anni fa, soprattutto nel mondo delle opinioni, della libertà di parola, della rivoluzione del senso, diciamo così. Oddio, ora che ci penso, siamo sotto lo Stato anche in Italia. Sotto lo Stato sempre, l'uomo deve tornare forse. Ecco, non so, voi cosa ne pensate? Al servizio dell'uomo. Scusate, no, a proposito di quello che diceva Mario, penso che l'affare del futuro, il modo di fare soldi in futuro sarà quello di vendere la privacy alle persone. Ma certo, già lo fanno. Certo, certo, giusto. Già, molto già lo giusto. Fanno, abbiamo visto. Siamo decollati verso il futuro, Pietrangelo l'ha evocato. Sapete cosa dovete guardare, secondo me, una delle cose più inquietanti? Quello che combina una società che si chiama Boston Dynamics e produce robot. È stata acquistata da Google qualche tempo fa e, insomma, qui i robot imparano a saltellare, correre, passeggiare. Cioè a essere umani come gli esseri umani. E chi è il committente più importante per le ricerche di questa società? E beh, il DARPA, cioè il Pentagono. Ora, se tutto va bene, la guerra la faranno per noi i robot, certo. I quali poi, in una parabola, la faranno contro di noi e mi ricorda qualcosa. Non ho ucciso il dottor Lenning. Perché ti nascondevi sul luogo del delitto? Non ho ucciso il dottor Lenning! Si può parlare di omicidio solo quando un essere umano ne uccide un altro. Non mi dirà che proprio lei suggerisce di trattare questo robot come un umano. Salamino. In principio fu il quid, quello che il cavalier Silvio Berlusconi cercò invano in Alfano e non lo trovò, quello niente. Se ne andò, e però adesso cos'è rimasto? Che continua la guerra in casa Berlusconi, laddove non si intenda la fine della pace domestica, bensì quella politica. Allora, Berlusconi non vuole saperne di ristrutturare il partito, piuttosto si chiama dentro casa l'NCD, se li richiama dentro e sbaraglia i nemici nuovi. E che quelli sarebbero? Ci vanno? E ci quelli vanno, ci vanno, ma ci vanno perché dovreste vedere Minoli quando dice ci vanno. ci vanno. E allora perché offrirà sul piatto novella Salomè offrirà sul piatto le teste di Carfagna, Ravetto, Polverini, Capezzone, Rotondi, che vanno tutti al seguito del mancato Delfino, l'uomo del quid azzurro, protagonista del De Bello Fittico Fitto, che comunque dedica a Silvio questa canzone. I delfini vanno a ballare sulle spiagge, i delfini. Gli elefanti vanno a ballare in cimiteri sconosciuti, le nuvole vanno a ballare all'orizzonte, i treni vanno a ballare nei musei a pagamento. Morale? E tu dove vai a ballare? Questa sarà la domanda interessante. Che poi la Pascale ha criticato in Fitto l'accento pugliese. Sì, vabbè, no. Ma vedremo come va a finire. Da non sono d'accordo con Bustafuoco. Ma tutti andiamo con la quota rosa. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. Vedevo Mario che muoveva tutta la testa quando ha sentito questa era canzone, vero? Money makes the world go round. Yes. Chissà se piace il mio accento alla Pascale. Insomma, non si è mai parlato così tanto di soldi come adesso che non ce ne sono. Incredibile. Ma invece per la Tasi, la mia amica Tasi, ne serviranno proprio tanti. Dicono 2 miliardi. Tutti insieme, ma scaglionati. Insomma, la Veltroni, Giovanni. Sì, però, ma anche no. Dovevamo pagare tutto insieme, IMU, Tasi e Tari, ma si sa, ognuno è diverso e poi la vita è complicata, mica si può semplificare troppo. Allora, qualcuno paga giugno, qualcun altro 16 ottobre, ma la coincidenza, e qui me la sono chiamata, è che tutti, proprio tutti i comuni dovranno decidere l'aliquota da far pagare il 28 ottobre, il giorno del mio compleanno. Ah, ricordiamoci, il 28 ottobre. Come ripetiamo questa data? 28 ottobre si accettano regali. Ah, che data, che data! Smettila, Pietrangelo, una data complicata. Oggi, oggi, nella seconda ora, noi parleremo del fenomeno Beppe Grillo, ma ne parlerà uno che lo conosce bene, che ha aiutato a nascere dal punto di vista artistico. Beppe Antonio venne a cercarmi mentre lavorava al Derby di Milano, mi disse: Antonio, ho finito il mio repertorio, se non mi dà una mano tu sono rovinato. Al che io abbandonai quello che stavo facendo, abbandonai anche la mia carriera di insegnante e mi consegnai anima e cuore alla Giuseppa, perché Beppe in realtà non esiste, non esiste Beppe Grillo, è stato nominato poi da Pippo Baudo, il nome Beppe è stato messo da Pippo Baudo. In realtà Beppe dagli amici viene chiamato Giuse, dagli intimi, e non vi posso spiegare perché, viene chiamato la Giuseppa. Concorrenti di terra, di mare e dell'aria, spappoleremo i fianchi al notaio, lo volete? Sì, anche le gambe! Vabbè, e allora seconda ora, Luca Martera su Beppe Grillo, canzoniere. Ero tornato a casa per i campi, si era nel mezzo dell'estate, avevano raccolto l'erba e si preparavano a mietere la segala. C'è un'incantevole varietà di fiori in quel periodo dell'anno, rossi, bianchi, rosa, odorosi, teneri, trifogli, insolenti, margheritine, ma amano mamma bianco latte con il centro giallo scuro e il loro intenso puzzo di fradicio. Mix 24. Mauro da Brescia. Mauro. Sì, ciao Dani. Ecco. Allora, io volevo intervenire perché stavate parlando della Libia. Sì, dici. Io ho avuto a che fare con la Libia per lavoro nel 2001, sì. Mi sono trovato benissimo. A me la Libia è restata nel cuore, io l'anno scorso l'ho avuto al lavoro. Sì. È bellissima, sì. Io sono stato sia in Egitto che in Libia l'anno scorso. Tutti ne parlano di zone pericolose, io purtroppo non è spinta in Italia come zona turistica, ma la Libia è bellissima. Sì, ma la allora... cosa brutta che noi perdiamo è questa, da quando c'è stata la guerra i francesi ci hanno spinto fuori dalla Libia e noi italiani stiamo ormai alla finestra. Secondo me è stata una cosa puramente di interesse, perché guardate, gli italiani erano ben voluti, ci volevano tutti bene, adesso non ci guarda più nessuno. Vogliono i francesi. Ci siamo fatti cacciare dai francesi e dai ben pensanti europei. E questo è il risultato. È una cosa persa. Qua nel Bresciano eravamo in tanti che lavoravano con la Libia, siamo tutti alla finestra, perché qualcuno ha pensato bene che per gli interessi della comunità europea, non so di quale, grazie, dovessimo Mauro. Andare a fare la guerra. Che sì, è molto interessante, perché è molto vero. Mario, volevi dire una cosa? No, solo un aggiornamento di pochi minuti fa, un convoglio che trasportava il capo di stato maggiore dell'esercito libico è stato attaccato a Tripoli. Beh, allora, guarda, io ero a Rixos, ero di fronte al Parlamento libico a Tripoli, ero là a novembre, a ottobre, se tu guardi che è successo il 5 di ottobre. Grazie Mauro, abbiamo capito, grazie, la Libia non l'abbiamo persa senza neanche combattere in nessun modo. Ecco Mario, ci avevi ancora una bolla? Sì, vai. Quando si parla poi di mercati e di borsa, cosa scatta? Il coro dell'Armata Rossa, no? Perché no, segnalo solo ai ben pensanti che sapete chi ha realizzato il rimbalzo di mercato più grande a maggio? Sì. Vladimir Putin. L'indice della borsa di Mosca ha il record, tutti gli altri seguono con fatica, capito? Altro che sanzioni. Le sanzioni non ci sono. Salamino. Oggi Salamino per fatto personale. Allora, da gustare. Leggo nella rubrica di Aldo Grasso oggi sul Corriere della Sera un titolo: Rai 1 e Arena di Verona unite nel segno del kitsch. Che è successo? Che Dario Fo, ospite della serata, ospite di Antonella Clerici nella serata dell'Arena di Verona, lancia in resta, è andato contro i nominati detrattori di Papa Francesco. L'innominato sarei io, perché ancora mi molesta a seguito di una discussione. Mi fa carico di grandi responsabilità, cioè di portare io la voce di potentati economici che sono stati tolti. Sì, io. Dai, lo sappiamo. Tu che sei un uomo di televisione. La cosa divertente, lo sapete qual è? È che hanno invitato dalla Clerici Dario Fo in una serata nazional popolare di Rai 1 per un semplice motivo, perché era stata preparata prima delle elezioni. In Rai immaginavano che Grillo vincesse le elezioni. Vabbè, sì, è un processo alle intenzioni. No, no, è semplicemente non una radiografia, è un attacco alla Rai. Vabbè, l'attacco alla Rai, professor Doglio, ecco, parliamo del buongiorno, parliamo dell'attacco alla Rai. La BBC, che è la madre di tutti i servizi pubblici, in questi giorni si parla sempre di lei. Ecco, in realtà, in concreto, come sta gestendo questo rinnovo della charter, che può essere simile al rinnovo della concessione che avrà la RAI, dovrebbe avere la RAI nel 2016? Ecco, come la sta gestendo? Ma diciamo che loro hanno il vantaggio di seguire una procedura predeterminata. Ogni anno, convenzione o non convenzione, si tiene questi incontri sistematici con gli utenti, pubblica all'inizio dell'anno la sua dichiarazione di intenti, la presenta, la propone e la verifica poi ogni anno in un libro bianco gestito dal BBC Trust, che controlla che gli obiettivi siano stati raggiunti. Dopodiché, nel caso della rinnovo della convenzione, tutto questo della concessione proprio della concessione di sì. Chiamiamolo charter, perché poi è una cosa un po' diversa. Il rinnovo del charter, tutta questa mole di riflessioni, di analisi, di azioni viene sintetizzata, va a finire in un libro verde governativo, viene dibattuto pubblicamente e si procede così progressivamente verso la scadenza naturale, che è il 2016. Siccome sa BBC di doversi presentare all'appuntamento con i conti in ordine, diciamo che ha cominciato a risparmiare per tempo. Negli ultimi 5 anni ha realizzato risparmi per più di 2 miliardi di sterline. 2 miliardi di sterline? Sì, che quanti signor. Euro sono? Sono 2 miliardi e mezzo di euro, più o meno. Ha cominciato a ridurre il personale. Un po' più di 150 milioni, insomma. Certo. 20% in meno negli ultimi 3 anni, però attenzione, queste sono cose standard, ma bisogna capire che sul mercato televisivo inglese, che è un mercato fortemente competitivo e internazionalizzato, 20% di personale in meno non sono nuovi disoccupati, in parte sono prepensionati, in parte si ricollocano abbastanza facilmente nel settore della produzione indipendente. Perché sono dei professionisti della produzione? Sì, ma che vuol prevalente. Dire che, l'ho già detto altre volte, lo possiamo ripetere adesso, mi sembra che sia il momento giusto. Vale 10 volte quello italiano. Allora, quando uno ha un settore produttivo indipendente che vale 10 volte di più, è probabile che si riesca a ricollocare il personale in esubero. Poi stanno pensando di tagliare il 50% del senior management. Management, sì, 50%. Quei 250 top manager, diciamo, che in parte stanno raggiungendo annualità sufficienti per la pensione, in parte possono essere sostituiti da una riorganizzazione. Hanno previsto, come si sa, di rinunciare alla messa in onda di uno dei canali, BBC 3, spostandolo esclusivamente sul web, ma bisogna dire che su queste due decisioni, che sono molto importanti, è il BBC Trust che deve decidere. E siccome ha appena deve sostituire il suo presidente, non si è ancora espresso. Però diciamo che è un dibattito di grande profondità, molto articolato. Poi perché ci sono anche, come dire, se posso usare questa espressione, decisioni di politica economica. Sì. Per esempio, già da qualche anno hanno iniziato un processo di rilocalizzazione degli studi, dei centri di produzione, per ridurre il peso di Londra nella produzione BBC. Questo ha voluto dire l'avvio di una vera e propria politica economica di tipo nazionale, perché ha voluto dire rinforzare Birmingham, Manchester, Glasgow, con specializzazioni produttive molto precise e una correlazione molto forte sempre con la potenziale domanda, diciamo, del mercato. Beh, molto chiaro, quindi una ristrutturazione molto molto profonda, molto significativa e soprattutto molto pensata. Ritorneremo su questo tema, grazie professor Doglio, dopo la pubblicità. L'abbiamo detto, oggi nella seconda ora raccontiamo la nascita del comico Beppe Grillo, quello scoperto da Pippo Baudo, che Marina Milone ha intervistato per noi dopo questa storia di Martera.